Capitolo 23. David de Vecchio, dichiarato re Salomone, stabilisce gli uffizi dei Leviti, fattoni il novero. I figliuoli di Mosè sono contati tra i Leviti. David ha dunque avanzato in età, e pieno di giorni stabilì Salomone suo figliuolo re di Israele. E convocò tutti i principi di Israele, e i sacerdoti, e i Leviti, e fu fatto il novero dei Leviti dai 30 anni in su, e si trovarono 38.000 persone. 24.000 di questi furono scelti, e distribuiti per i ministeri della casa del Signore, e i prefetti, e i giudici furono 6.000. E 4.000 erano i portinai, e altrettanti i cantori, che cantavano le laudi del Signore sopra gli strumenti fatti da lui per lo canto. E Davide le distribuì nei loro turni secondo le casate dei figliuoli di Levi, viene a dire, di Gerson, e di Caat, e di Merari. Figliuoli di Gerson, Ledan, e Semei. Figliuoli di Ledan 3, primogenito Yaniel, e Zetan, e Joel. Figliuoli di Semei 3, Salomit, e Osiel, e Aran. Questi erano i capi delle famiglie di Ledan. Figliuoli di Semei 4, Geet, e Zizza, e Jaus, e Baria, questi figliuoli di Semei. Orleet era primogenito. Zizza secondogenito, ma Jaus, e Baria non ebbero molti figliuoli, e perciò furono contati come una sola casa, e famiglia. Figliuoli di Cat 4, Amram, e Isar, e Brou, e Oziel. Figliuoli di Amram, Aronne, e Mosè, ma Aronne fu separato per il ministero del Santo dei Santi, egli, e i suoi figliuoli in sempiterno, per bruciare l'incenso in onore del Signore secondo i suoi riti, e benedire il nome di lui in perpetuo. Ed anche i figliuoli di Mosè, uomo di Dio, furono annoverati nella tribù di Levi. Figliuoli di Mosè, Gersom, ed Eliezer. Figliuoli di Gersom, Samuel primogenito. Di Eliezer fu figliuolo Robia capo di famiglia, e altri figliuoli non ebbe Eliezer. Ma i figliuoli di Robia moltiplicarono sommamente. Figliuoli di Isar, Salomit primogenito. Figliuoli di Ebron, Geriau primogenito, Amaria secondo, terzo Yaziel, quarto Jecman. Figliuoli di Oziel, primo Misha, secondo Gesia. Figliuoli di Merari, Moli, e Musi. Figliuoli di Moli, Eleazar, e Cis. E morì Eleazaro, e non ebbe figliuoli, ma delle figlie, e le sposarono i figliuoli di Cis loro fratelli. Figliuoli di Musi 3, Moli, ed Eder, e Gerimot. Questi sono i figliuoli di Levi capi delle loro famiglie, e consorterie, noverati testa per testa, i quali esercitavano a turno le incumbenze del ministero della casa del Signore dai 20 anni in poi. Però che disse Davide, il Signore Dio d'Israele ha dato requie al suo popolo, e ferma stanza in Gerusalemme in perpetuo, e non avranno più i Leviti l'ufficio di portare il tabernacolo, e tutti i vasi di servigio del medesimo. Or secondo le ultime disposizioni di David, il numero dei figliuoli di Levi è contarsi dai 20 anni in poi. E saranno subordinati ai figliuoli d'Aaron riguardo al culto della casa del Signore, sia nei vestiboli, sia nelle camere, e nel luogo della purificazione, e nel santuario, e in tutte le funzioni del ministero del Tempio del Signore. I sacerdoti poi hanno la soprintendenza dei pani della proposizione, dei sacrifici di fior di farina, e delle offelle azzime, e dei frittumi, e di quello che si arrostisce, e di tutti i pesi e misure. E i Leviti si trovino la mattina a cantare le lodi del Signore, e parimente la sera, tanto alle oblazioni degli olocausti del Signore, come nei giorni di sabato, e delle calende, e nelle altre solennità nel numero prescritto, e osservando costantemente le cerimonie, che a ciascuna cosa convengono dinanzi al Signore. E manterranno le regole del tabernacolo del testamento, e i riti del santuario, e gli ordini dei figliuoli d'Aaron e loro fratelli, per fare le loro funzioni nella casa del Signore. Note, da 30 anni in su. Davide fece prima il censo dei Leviti da 30 anni in su, come aveva stabilito Mosè, numero 4. Ma di poi considerando, che le loro fatiche erano molto diminuite dopo che l'arca e il tabernacolo erano in luogo fisso, e i Leviti non avevano da portare, come nel deserto, le suppellettili sacre e le varie parti del tabernacolo. Fece un secondo censo, nel quale per avere un maggior numero di ministri del santuario, furono computati i Leviti dai 20 anni in su, v. 38.000. I sacerdoti non erano compresi in questo numero. 2. Prefetti e giudici. Quelli che sono chiamati prefetti nella nostra Vulgata, alcuni credono essere piuttosto gli scribi, o dottori del popolo. Riguardo a giudici, vedi. Parol. 19. 2. Non ebbero molti figliuoli, e perciò furono contati come ec. Essendo poco numerose le due famiglie di Jaus e di Baria, furono contate per una solo, affinché non restassero troppo aggravate, se ciascuna di esse avesse dovuto fare tutto quello che facevano le famiglie maggiori. 2. E le sposarono i figliuoli di Cis loro fratelli, cioè cugini germani, così era disposto nella legge, numero 27. XXV. 2. Nel luogo della purificazione. Nell'atrio interiore, dove erano le conche per la purificazione dei sacerdoti, quando si preparavano ad esercitare le loro funzioni. 2. Hanno la soprintendenza dei panni della proposizione. I sacerdoti li esponevano davanti al Signore, levandone i vecchi, i leviti poi il preparavano. Vedi sopra, cap. 9. Levit. 24. E di tutti i pesi e misure che si conservavano nel Tempio a fin di ovviare alle fraudi che potevano commettersi nel popolo con false stadere e misure. Fedi Exod. 30. 2. Per fare le loro funzioni e affinché possano meritare di essere ricevuti a fare le loro funzioni nella casa di Dio, impero che sembra che questa sia una minaccia per i Leviti, che fossero poco obbedienti.